Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Ultima puntata di Focus Economia prima del Natale, e la penultima che condurrò io nel 2014. C'è anche la puntata speciale del 31 dicembre e poi noi ci risentiremo nel 2015. Molti di voi saranno contenti, quindi ho fatto un regalo di Natale anch'io, contenti di non sentirmi. In realtà puntata attesa da alcuni fanatici, perché oggi parleremo di borsa, delle previsioni sulla borsa, e lo faremo in maniera seria attraverso chi investe tutti i giorni, tutti i mesi, tutte le settimane sul mercato azionario, compra titoli, ma soprattutto compra imprese e partecipa poi alla gestione delle imprese. E lo faremo in maniera altrettanto seria, se mi permettete, con le stelle, così chiarisco subito a chi ce lo chiede. È oggi la volta dell'astrologa. Una, due volte l'anno sentiamo anche gli astrologi. Devo dire che anche quest'anno, con le previsioni che abbiamo letto quasi un anno fa, a gennaio 2014, con quello che poi si è verificato, si faceva prima a sentire l'astrologa, perché nessun istituto, quanto a previsioni economiche sulla crescita dell'Italia, ci ha azzeccato. Abbiamo spiegato in molti casi e illustrato anche le ragioni, una erronea lettura della fiducia in crescita a fine 2013 da parte di consumatori e imprese ha portato gli istituti a pensare a una crescita quest'anno tra lo 0,6, lo 0,7, lo 0,8, addirittura l'1% del PIL, e chiudiamo con un meno 0,3, meno 0,4, vedremo il dato definitivo. Questo perché, tra le varie spiegazioni, è cambiato il mondo ed è cambiato anche il modo, o meglio il significato, che si dà a certe risposte. Aver detto un anno fa che c'era maggior fiducia da parte di consumatori e imprese non voleva dire che essi avessero maggiore fiducia o pensassero in una crescita economica, pensavano semplicemente che la situazione non sarebbe peggiorata. Ora, se tu ti definisci fiducioso perché ritieni che la situazione non peggiori, o se ti definisci fiducioso perché ritieni che la situazione migliori, passa un mondo. E non so se è chiaro il concetto. La situazione è così critica che adesso la fiducia va a misurare una fiducia di una situazione che non peggiorerà, sia personale, sia dell'impresa, sia del paese, non la fiducia di una situazione che migliorerà. Chiuso questo preambolo, veniamo oggi alle previsioni sul prossimo anno azionario, come dovrebbero muoversi i mercati in generale. Per farlo però è sempre bene ricordare da dove siamo partiti, che cosa hanno fatto le borse fino adesso. Proprio ieri commentavamo in diretta il record del Dow Jones, che ha toccato per la prima volta nella sua storia 18.000 punti, grazie a un PIL americano che è cresciuto nel terzo trimestre più di ogni attesa, il 5%, a dimostrazione che almeno per ora le ricette messe in campo dalla Federal Reserve e dal governo americano si sono rivelate vincenti, mentre quelle messe in campo dall'area della gestione dell'euro da parte della Commissione Europea, del paese più importante, Germania, si sono rivelate perdenti, nonostante i tamponi che ha messo Mario Draghi. E nonostante appunto il mercato ormai scommetta che Mario Draghi andrà a comprare titoli di Stato di alcuni paesi, e il dato di ieri sui rendimenti dei BTP a 10 anni italiani ai minimi storici andava in questa direzione, dicevo, da inizio anno Milano cosa ha fatto? Ha fatto più 1,5% sul FTSE MIB, più 1,4% anche sul FTSE All Share. Il Dow Jones invece ha fatto quasi il 10,5% di rialzo, il Nasdaq più 15%, Londra meno 1,5%. Ancora, l'indice americano dal livello più basso, marzo 2009, toccato dopo la crisi e il fallimento di Lehman Brothers, ad adesso ha recuperato il 178%, che vuol dire che se uno avesse investito banalmente in un paniere rappresentativo del Dow Jones, avrebbe guadagnato nell'arco di 4 anni e mezzo il 180%. Altro tema importante che riguarda il rapporto Stati Uniti-Europa, euro, è il rapporto di cambio. Da inizio anno l'euro adesso è una quota 1,21,7-1,22, ma da inizio anno ha perso l'euro nei confronti del dollaro circa il 10,5%, che è una buona notizia per noi, perché dovrebbe aiutare le nostre esportazioni, anche perché nel frattempo il petrolio pure è calato, ha perso quasi più del 50% del suo valore e viaggia tra i 55 e i 60 dollari al barile. Allora, che cosa è successo quest'anno? Partiamo dalle ultime notizie, andiamo un po' a passo di gambero. La Federal Reserve, la banca centrale americana, lo scorso 17 dicembre, ha fatto sapere che lascerà i tassi invariati e ha fatto capire che li lascerà invariati per un po', almeno fino a giugno, tra lo 0 e lo 0,25%. Ha detto infatti il numero uno della Federal Reserve, Janet Yellen, noi cambiamo linguaggio, però saremo molto pazienti nell'iniziare a normalizzare la politica monetaria. Il Comitato federale per il mercato aperto ribadisce la sua posizione. L'attuale livello dei tassi fra lo 0 e lo 0,25% rimane appropriato. Il Comitato ritiene di poter essere paziente nell'iniziare a normalizzare la politica monetaria. Questo linguaggio nuovo non rappresenta un cambiamento delle nostre intenzioni in politica monetaria. È assolutamente in linea con le precedenti dichiarazioni, secondo cui è appropriato mantenere l'attuale livello dei tassi per un considerevole periodo di tempo dopo la fine del programma di acquisto di titoli del Tesoro e privati. Ma con il programma concluso a ottobre e con l'economia che sta facendo progressi verso l'obiettivo che ci siamo prefissati, il Comitato ritiene che alcune modifiche alla nostra linea siano appropriate in questo momento. A proposito del mercato del lavoro, i progressi sono in corso. Recentemente si è rafforzato il passo sul fronte della creazione di posti di lavoro con un aumento in media di 280.000 posti al mese negli ultimi tre mesi. Negli ultimi 12 mesi, i posti di lavoro sono cresciuti in media di 235.000 unità al mese. Il tasso di disoccupazione era al 5,8% a novembre e sta diminuendo il sottoutilizzo della forza lavoro. Allo stesso tempo, c'è ancora spazio per migliorare, perché ci sono ancora troppe persone che vogliono un lavoro ma non riescono a trovarlo. In troppi ancora lavorano part-time, mentre vorrebbero lavorare a tempo pieno. Ci sono ancora in troppi ad aver rinunciato a cercare lavoro, ma che vorrebbero un'occupazione se solo il mercato del lavoro fosse più forte. Continuiamo a vedere un sufficiente rafforzamento dell'economia per sostenere i progressi in atto nel mercato del lavoro. Allora, come sentite, quando parla il numero uno della Banca Centrale Americana ha come obiettivo l'occupazione, il lavoro. E questa è già una differenza che ci porterebbe a fare un'altra puntata oggi sull'approccio diverso, tutto concentrato sull'occupazione. Non a caso i dati di ieri del PIL americano erano dovuti in primo luogo all'aumento dei consumi interni. Più occupati crei, più ritornano a esserci consumi. Da noi invece lo sappiamo, lo spauracchio di Weimar è l'inflazione, che infatti non c'è in Europa in questo periodo. E di lavoro ci si occupa molto poco, l'importante è stare nel 3% del deficit PIL. Ma non voglio fare un'altra puntata, voglio fare una puntata sul 2015. E allora saluto da un lato Giovanni Tamburi, presidente, amministratore delegato della Tamburi Investment Partners. Buonasera Tamburi. Buonasera. Che è una banca di investimenti quotata a Piazza Affari, 220 milioni di euro di capitale, avete partecipazioni in Prismian, Amplifon, Roche Beauvoir, Interpump Italy, poi siete entrati direttamente come soci in Moncler e avete sempre questa attenzione per aziende o da comprare in parte, o da partecipare in parte, da portare in borsa e poi per il mercato azionario. Tra il sacro, allora non so se lei forse è il profano, diciamo così, e il sacro, come sacro, ringrazio per averci raggiunto di nuovo in collegamento, grazie a Mirti, che è una buonasera. Delle massime, buonasera. Una delle massime esperte di astrologia finanziaria, fu l'autrice, lo ricordo, il libro del 99, ed è la casa editrice era Sole 24 Ore, Investire con gli astri. E tra l'altro nel 99 lei preannunciava la fine del ciclo espansivo tra il 2008 e il 2009, quantomeno ci ha imbroccato. Allora, veniamo al 2014, poi arriviamo alle previsioni. Dunque, Mirti, l'ultima volta che lei è stata nostra ospite era il 27 dicembre del 2013, quindi quasi un anno fa. Ci disse sostanzialmente, perché noi tracciamo tutto, vabbè, al di là di Marte nella bilancia, scollamento tra la quotazione delle borse e l'economia reale. 2014 che doveva iniziare bene per le borse, c'era la luna in Capricorno, riteneva che le tasse non sarebbero scese, vabbè, questo... e che Saturno in Scorpione avrebbe ridimensionato redditi e pensioni. Devo dire che anche Letta, Monti e vediamo un po' Renzi hanno dato una mano. Allora, è andato come prevedeva il 2014? Penso di sì. Mi dica perché. Ma io direi che sicuramente il trend è stato abbastanza simile a quello che avevo detto. Aggiungerei che si sono verificate delle situazioni, naturalmente come sempre capita, impreviste su vari settori, però in generale purtroppo finché Saturno è stato in Scorpione ha dato veramente molto impegno e soprattutto secondo me ha colpito pesantemente, come lei ha già detto, l'Europa, anche perché l'Europa è tutta Capricorno e di conseguenza ha patito tutta una serie di transiti che non voglio annoiare nel ricordare. Sì, Capricorno, adesso non vorrei sembrare profano, però Capricorno a me ricorda la cocciutaggine di una cancelliera, però sappiamo che Capricorno... No, però la cancelliera è Cancro, è Cancro. Sì, non ecco. È Capricorno, e quindi non vedrà Cancro come mai segno bene sì. Né il mercato, né la CE e né l'euro. Stanno sempre stretti e male, non li considera. Ma perché, ma perché a un Cancro dovrebbero andare stretti l'euro e l'Unione Europea? E perché il Capricorno è il segno nel quale sono nati l'Unione Europea e l'euro, tutte e due. E dice e Cancro e Capricorno e non si parlano. Sono esattamente opposti. Infatti la signora Lagarde, per esempio, è Capricorno, per lei sono più graditi. Sì, va bene. Io ascolto. Questo per quello che riguarda gli astri. Giovanni Tamburi invece è il nostro ospite più volte, anche perché parliamo di dati contingenti. Un primo giudizio sul 2014, Tamburi, poi andiamo avanti anche raccontando che cosa è successo con gli interventi soprattutto di Mario Draghi. Allora, meno 1,5 Milano, più 1,5 Milano, più 10% il Dow Jones, già la dice tutta su dove uno avrebbe dovuto investire un anno fa o all'inizio del 2014. Sì, c'è da dire che però il 2014 ha anche dimostrato una divaricazione forte fra l'indice base, per cui il FTSE MIB che lei ha nominato, e gli indici delle società eccellenti, migliori. L'indice Star ha fatto come il Dow Jones, cioè ad oggi siamo intorno al 10,5%, e per cui in realtà si è verificata questa selettività, che secondo me poi continuerà nel 2015, ma magari ne parliamo fra un attimo, e in realtà se uno pensa che le aziende buone italiane hanno reso come investimento come il Dow Jones, è già un segnale importante di quella che è l'Italia che funziona e l'Italia che invece è legata alle banche, a tanti carrozzoni parapubblici, eccetera. Allora, per quello che... tra l'altro, cos'è che non è andato come lei prevedeva e che cos'è che l'ha sorpresa invece di quest'anno che stiamo chiudendo? Ma la crescita, come lei ha detto all'inizio, tutti quanti prevedevamo, basandoci sugli economisti, sulle grandi banche d'affari, le grandi banche di investimento, eccetera, che sarebbe stato un anno, anche per l'Europa, di crescita. In realtà, a gennaio, febbraio, marzo si pensavano certe cose, poi pian piano nel tempo siamo arrivati a una crescita sostanzialmente zero a livello europeo. Questa è stata l'unica vera grossa sorpresa. Ma i rendimenti del BOT a tre mesi negativo, dei BTP ai minimi storici, questo spread a 132, se lo immaginava? Sì, l'abbiamo anche detto. Lo immaginavo, ero stato considerato in questa trasmissione troppo ottimista, in realtà sotto questo aspetto... Lei è sempre considerato da noi troppo ottimista, però prego. Beh, fino a 4-5 anni fa ero considerato una Cassandra, a 24 ore mi fece un titolone dicendo che ero troppo pessimista, però poi è crollato mezzo mondo. Vabbè, quindi è una critica anche a noi, ma non è che abbiamo la Bibbia o la verità rivelata nemmeno noi. Allora, restiamo sull'Europa invece, perché la Yellen che abbiamo appena ascoltato, ossia il numero uno della Federal Reserve, è stata nominata il 6 gennaio del 2014 e a marzo di quest'anno ha fatto la prima riunione, è la prima donna a gestire la Banca Centrale Americana nella storia, e in quell'occasione già iniziò il programma di rientro dallo stampaggio di dollari, perché tagliò 10 miliardi. La Banca Centrale Americana stampava, adesso sarebbe lungo spiegarlo, col quantitative easing circa 80-100 miliardi di dollari al mese. La Yellen inizia a ridurre questa liquidità, 10 miliardi a marzo, e poi taglia continuamente, praticamente scende a 55 miliardi al mese, e ormai sono arrivati a poca cosa, se non ricordo male, 15-20 miliardi di dollari stampati al mese. Avete appena ascoltato anche il fatto che la sottolineatura della Yellen, e cioè sarò molto accomodante nel far risalire i tassi. Invece chi ha, non dico sorpreso, ma ha tenuto perlomeno la barra dritta in tutto 2014 è stato Mario Draghi, perché il 5 giugno la Banca Centrale Europea porta il tasso di rifinanziamento allo 0,15%, taglia il tasso sui depositi. Le banche europee mettevano i soldi di notte nella banca centrale, li ripigliavano la mattina e ci guadagnavano pure. Allora Draghi ha detto basta, se volete mettere i soldi nei nostri depositi, care banche dell'area euro, sappiate che ci perderete qualcosa, il tasso lo porto in territorio negativo, meno 0,1%. E poi un pacchetto di nuove misure, i famosi aiuti alle banche, che poi hanno avuto un raddoppio il LTRO a settembre. Ma andiamo con ordine. Mario Draghi, il 5 giugno di quest'anno, chiarisce la BCE non ha esaurito le misure. A domanda se e quando anche la Banca Centrale Europea avesse intenzione di stampare euro attraverso il quantitative easing. The measures will contribute to a return of inflation rates. Le misure odierne contribuiranno al ritorno del tasso di inflazione a un livello vicino al 2%. Le attese circa l'inflazione nell'area euro nel medio-lungo termine continuano ad essere ancorate in linea con l'obiettivo di un tasso al di sotto ma vicino al 2%. Guardando più avanti, il Consiglio è molto determinato nella salvaguardia di questo ancoraggio. I tassi di interesse rimarranno a livello attuale per un prolungato periodo di tempo alla luce dell'attuale scenario per l'inflazione. Se necessario, la BCE è pronta a decidere velocemente un ulteriore allentamento monetario. Il Consiglio è unanime nell'impegno di usare anche strumenti non convenzionali se dovesse diventare necessario affrontare i rischi di un periodo troppo prolungato di bassa inflazione. Eravamo ancora a metà anno, il 5 giugno, già però sentite che insomma, il grosso problema era la bassa inflazione, il rischio deflazione, la non inflazione. Sappiamo che con buona pace dei tedeschi un po' di inflazione ci vuole in Europa, la banca centrale individua il livello ottimale intorno al 2% di inflazione. Perché? L'abbiamo spiegato molte volte, perché se vai in deflazione intanto è dimostrato che vengono rinviati gli acquisti ulteriormente perché aspetti i prezzi più bassi. Ma poi tutti i paesi che hanno debito o le società che hanno debito, debiti, vedono aumentare il debito. Cioè l'inflazione di fatto erode il valore reale del tuo debito. No? Per cui se tu hai 1000 euro di debito e hai un'inflazione al 10%, dopo un anno hai sostanzialmente, in termini reali, 900 euro di debito. All'opposto, se hai una deflazione del 10%, è chiaro che stiamo ragionando per cifre improbabili, l'anno dopo il tuo debito in termini reali è di 1100 euro, quindi ci sono tanti problemi connessi a prezzi in calo, nessuno vuole i prezzi troppo in crescita ma neanche in calo. Allora Giovanni Tamburi, si sentiva un Mario Draghi preoccupato ancora per la deflazione, in realtà che cosa non sta funzionando delle misure? Perché poi a settembre Draghi è tornato all'attacco con un piano da centinaia di miliardi di prestiti alle banche purché li girino alle imprese e alle famiglie ma non per i mutui, che le banche stanno utilizzando poco, pochino, le banche europee. Però insomma, al di là dello stampar moneta, che cos'altro poteva fare Draghi? Ma non molto, quello che ha fatto è stato il massimo di quello che poteva fare, sappiamo benissimo che ha dei vincoli con la banca tedesca e con il governo tedesco, certamente quello che ha fatto molto bene. Quello che riguarda le banche, in particolare le banche in Italia, per quello che ci riguarda, le banche stanno cercando di erogare prestiti. Sono le imprese che non li chiedono più, o meglio, li chiedono le imprese che non li meritano, mentre non ne hanno bisogno tutte le imprese che potrebbero essere finanziate dal sistema. Tant'è che sono molto piene di cash tutte le imprese sane e pertanto io non darei la croce alle banche in questo momento, perché effettivamente sono pronte a erogare moltissimo. Tra l'altro stanno continuando a abbassare i tassi effettivi, ormai propongono operazioni a 4, 5, 6 anni a tassi molto molto bassi. Per cui il tema sono le imprese che devono cominciare a ridomandare denaro per investimenti. Sì, io non voglio difendere le imprese, ma è chiaro che se un'impresa non vede prospettive di crescita nel fatturato, non vede aumento delle vendite o delle committenze, degli ordinativi, perché dovrebbe iniziare a investire in macchinari, in capannoni? Gli investimenti di quel tipo a 1, 2, 3, 4 anni li fai quando tu hai uno scenario almeno positivo, no? Sì e no, nel senso che si è dimostrato proprio in questi ultimi 3 o 4 anni che moltissime aziende innovative che hanno avuto il coraggio di investire stanno guadagnando grossi vantaggi rispetto alle altre, perché in realtà molte imprese, anche in uno scenario stagnante come quello che si sta descrivendo in questi giorni, guadagnano quote di mercato perché altre vanno male, perché si sono indebitate troppo, perché non sanno gestire il passaggio generazionale, perché non hanno innovato nel prodotto. E per cui noi vediamo che ci sono moltissime aziende, per fortuna veramente molte, in Italia e in Europa in generale, che stanno beneficiando di questo momento e che continueranno ad aggregare imprese, a fare acquisizioni. L'M&A è ripartito forte nel 2014, nel 2015 sarà ancora più forte. Per cui io credo che si stia spaccando a metà, come abbiamo visto prima con gli indici. In realtà l'Italia del FTSE Star va bene e guadagna come il Dow Jones, l'Italia delle grandi banche o delle grandi imprese è ferma. Mirti, adesso arriviamo alle previsioni, ma di che segno è Draghi? Draghi è una vergine. Sempre come segno zodiacale, certo. Sì, come segno zodiacale. E secondo me avrà un difficile inizio del 2015, abbastanza faticoso, abbastanza anche deprimente. Poi invece col partire dall'estate, in autunno ritornerà veramente a splendere come una stella, però troverà lungo per arrivare al momento in cui gli daranno ragione. Bisogna sapere che qual è il segno zodiacale di Hans Weidmann, il capo della Bundesbank, perché non lo conosco. Noi conosciamo lui ma non il segno zodiacale, no, perché il principale oppositore delle politiche di Draghi è proprio la banca è la banca centrale tedesca. Credo che gli abbiano dato veramente il tormento e continuino a darglielo, e sono veramente molto pesanti, e credo che lui si sentirà abbastanza deluso e depresso nei primi mesi del 2015, però se riuscirà a continuare con la stessa tenacia precedente, alla fine avrà ragione. Allora, adesso abbiamo le informazioni, meteo e pubblicità, poi andiamo su quello che molti di voi stanno chiedendo con più forza, cioè le previsioni sul 2015. Bisognava anche ricostruire obiettivamente l'anno, però in una battuta subito, Tamburi, lei investirebbe in titoli di Stato l'anno prossimo? No. Mirti, titoli di Stato l'anno prossimo? Ma io sarei un pochino meno precisa nella risposta, direi. Senza esagerare, però. Questo come previsione astrologica e non come sua opinione personale, immagino. No, questo come previsione astrologica. Gli ultimi dati e indagini fino a novembre confermano lo scenario di una crescita più debole nel prossimo futuro. Allo stesso tempo è confermata l'attesa di una modesta ripresa. Inoltre, i progressi sul fronte del consolidamento dei conti pubblici e delle riforme strutturali dovrebbero contribuire positivamente alla crescita. L'export, poi, dovrebbe beneficiare della ripresa economica globale. Tuttavia, la ripresa resta zavorrata dall'alta disoccupazione. I rischi che circondano lo scenario economico della zona euro sono al ribasso. Il debole passo dell'economia, accompagnato da rischi geopolitici, ha il potenziale di indebolire la fiducia e specialmente gli investimenti privati. Inoltre, i progressi insufficienti sul fronte delle riforme strutturali portate avanti dai paesi rappresentano un ulteriore rischio al ribasso allo scenario economico. Allora, questo era Mario Draghi pochissimi giorni fa, nel senso che vi abbiamo fatto ascoltare prima la parte che riguardava giugno per darvi un'evoluzione e poi Draghi il 4 dicembre di questo mese, chiaramente, nell'ultima riunione del 2014 della Banca Centrale Europea, quando, e già si intuiva dalle sue parole, la BCE ha tagliato tutte le prospettive di crescita per l'area euro, portandole all'1% nel 2015. L'inflazione ferma allo 0,5%, avete sentito, insomma, ha dovuto dire che il piano Juncker era positivo, ha detto è l'unica iniziativa che c'è, ma insomma, sappiamo che quello è un piano delle tre carte, lo chiamo io. Si spostano un po' di investimenti da una parte all'altra e si aspettano 300 miliardi fantomatici dai privati che devono essere aggiunti ai 15 miliardi che mette la Commissione Europea. Draghi è preoccupato, abbiamo sentito che deve anche preoccuparsi perché essendo una vergine ci ha spiegato grazie a Mirti che nei primi mesi dell'anno non andrà benissimo. Però Giovanni Tamburi, andiamo sul 2015. Insomma, la crescita in Europa sarà debole e qui mi voglio fermare. Non sappiamo ancora se e quando Draghi sparerà l'ultima cartuccia, quindi stampaggio di moneta, le sue previsioni sui mercati azionari. Innanzitutto sono convinto che la ripresa non sarà debolissima, cioè quello che ci ha un po' deluso il 2014 secondo me è possibile che lo si recuperi, perché abbiamo una combinazione che onestamente non ricordo da anni, di petrolio, di dollaro e di tassi, che effettivamente dovrebbero molto favorire. Cioè, se non ripartiamo stavolta, esatto. Quando, se non ora quando, diciamo. Potremmo... Se non ora quando, per cui io ho l'impressione che le aziende potranno beneficiare di una crescita un po' più sostenuta della timidezza che oggi si racconta. Però qua il problema sono i consumi, Tamburi, cioè le imprese sul fronte export hanno fatto dei gran numeri nonostante la Russia, che ha pesato tantissimo negli ultimi mesi dell'anno, l'embargo, le sanzioni, il crollo del rublo e conseguentemente anche il crollo del potere d'acquisto dei russi. Dicevo, nonostante la Russia abbiamo fatto un altro anno eccezionale sull'export. Il petrolio, il dollaro, i tassi bassi aiutano il nostro export, però devono ripartire anche i consumi interni. Sì e no, perché i consumi interni secondo me si stanno abbassando ad un livello al quale dovremo convivere nei prossimi anni. Cioè il welfare europeo è saltato negli ultimi 5 anni, per cui noi non possiamo pensare di riavere una crescita forte, dovremo avere una crescita sicuramente debole. I consumi, si è visto con gli 80 euro che Renzi ha dato, si è visto anche in altri paesi, in Francia, in Spagna eccetera. Io credo che noi dobbiamo accontentarci di questo, anche perché noi dobbiamo cominciare a leggere il post-crisi come una crisi che è di riadattamento a 10 anni fa, non una crisi per tornare ad un livello che era totalmente irrealistico di 4, 5, 6 anni fa. Quindi un cambio strutturale. Marx diceva che la storia non si ripete mai se non sotto forma di farsa, per cui non so nemmeno se torneremo a 10 anni fa, dove la Cina pesava meno e dove c'era tutto un altro mondo. Sicuramente non torniamo a 5 anni fa, diciamo, al 2009 ce lo scordiamo. E quello che dice lei, devo dire, lo sostengono anche molti suoi colleghi e analisti, e cioè attenzione, non è una crisi che poi recuperi e torni ai livelli precedenti, questo è un cambio strutturale di paradigma, quindi è il nuovo che avanza, che poi sia brutto o bello, non sta mai a dirlo, ma non si tornerà più indietro, quindi bisogna anche riposizionarsi forse su questi livelli di consumi, magari qualcosa in più ci si può attendere. Comunque, l'ho interrotta, dicevamo, le prospettive per il 2015, lei dice, dal punto di vista della crescita economica, non stiamo ancora parlando di borsa, potremmo avere qualche sorpresa in positivo, perché c'è, e lo cito volutamente, una congiunzione astrale, per cui petrolio è basso, dollaro è alto, quindi l'euro è un po' più basso, e i tassi di interesse sono ai minimi. Sulla crescita economica, grazie a Mirti, la vede anche lei questa, si chiama congiunzione astrale? Certo, la vedo, anche perché ieri 23 dicembre, 24 ore fa, Saturno, come succede ogni 30 anni, è ritornato nel segno del Sagittario e quindi ci saranno nuovi scenari, anche perché si creeranno nuovi aspetti astrali. In particolare Saturno sarà favorevolissimo a Urano, che rappresenta sempre l'imprevisto, la tecnologia, le innovazioni, per cui avremo sicuramente una primavera evolutiva e costruttiva, e poi soprattutto nell'autunno ci potranno essere ulteriori miglioramenti. Quindi sono ottimista da questo punto di vista. Però non ho capito, Saturno entra in Sagittario, se ho ben segnato nel block notice, però questo ha a che fare con la crescita economica dell'area euro, dell'Italia, del mondo? In generale porta dei cambiamenti, porta sicuramente delle tensioni a livello internazionale, però creerà delle geometrie all'interno dello zodiaco che sono costruttive, e sulla sono crescita... molto migliori rispetto al precedente. E sulla crescita italiana cosa ci dicono le stelle? Sulla crescita italiana praticamente c'è questo pianeta Nettuno che passa una volta ogni 160 anni, che è ritornato nel segno dei pesci, e 160 anni fa, tra il 1848 e il 1861, si è costruita l'Unità d'Italia. Di conseguenza la presenza costante di Nettuno nel segno dei pesci, oltre che a ripetere le problematiche della Crimea e dell'Ucraina esattamente come succedeva all'epoca, adesso penso che potrà contribuire a un miglioramento di assetto e a una costruttività per quanto riguarda il nostro paese. Sì, faccio notare che qua di Sbarco dei Mille non se ne vede però traccia, non andiamo troppo. No, non è questo, però a livello internazionale c'è il ripetersi di situazioni che erano già evidenti all'epoca. Quindi lei dice che sarà un buon anno secondo le stelle, sarà un buon anno anche per il PIL italiano? Sì. Va bene. Dalle stelle, no, non faccio la battuta perché sarebbe troppo... No, perché c'ho qua Tamburi che, voglio dire, accetta... Non so se sia lei accettare Tamburi o Tamburi accettare lei. Comunque mi interessa poco. Adesso andiamo invece alle prospettive sui singoli settori azionari. Allora, prospettive Tamburi, fronte euro, perché ormai ragioniamo di mercato unico europeo, anche se poi Parigi si muove un po' diversamente rispetto a Francoforte e Milano, e fronte dollaro sostanzialmente. Intanto lei dove investirebbe, che quota darebbe in azionario? Investirebbe più sulla parte dollaro, sulla parte Europa e anche sull'Italia? Allora, io investirei sicuramente sull'Europa una buona parte, perché l'Europa, se siamo coerenti con quello che addirittura ci ha confermato anche l'astrologa, sulla crescita certamente sarà promettente, e anche sui mercati finanziari quello che si è un po' perso nel 2014 possiamo recuperarlo. Cosa in percentuale è difficile dirlo, ma comunque diciamo che un 30-40% si può tranquillamente investire. L'area dollaro certamente rimane attraente, perché tutte le previsioni internazionali delle grandi banche prevedono che ci potrà essere un trend che continua, per cui col dollaro potremmo andare a 1,15, 1,18, addirittura c'è chi dice a fine anno 1,10, e per cui lì ci potrebbero essere delle buone soddisfazioni. Sul dollaro, per parte obbligazionaria, metterei poco, perché i soldi rendono molto poco, anche se rendono un pochino più che non da noi. Certamente sulla parte azionaria, ancorché tutti gli indici americani siano gli stramassimi di sempre, metterei una quota rilevante. Relativamente all'Italia, secondo me ci sarà una conferma delle società buone, per cui le società dello Star, le società che esportano, le società sane continueranno ad andare bene, forse anche meglio, anche perché noi l'abbiamo visto con molti casi ultimamente, l'Italia continua a essere prezzata male, continua a, diciamo, avere uno sconto in saldo. Ad essere in saldo. Probabilmente qualche ascoltatore ricorderà quando un anno fa, su una domanda specifica su un titolo, io parlai di Fiat. Fiat rispetto a un anno fa ha fatto il 60%, e probabilmente continuerà, perché Fiat è il classico titolo prezzato all'italiana di un'azienda che fa l'80% del fatturato negli Stati Uniti. Di queste società qui, per fortuna l'Italia ne ha tante, tante sono quotate, e io punterei in Italia essenzialmente su queste aziende qua. Allora, io una cosa devo ancora chiedere, poi veniamo ai settori, oltre che lei già citava Fiat e, come suggerimento dell'anno scorso, però una cosa alla Grazia Menti vorrei chiedere, non è tanto, lei ha già chiarito che appunto, se ho ben capito, Saturno entra nel Sagittario e esce dallo Scorpione, quindi c'è un po' di sollievo da parte economica. Però torna ancora in Scorpione per 3 mesi. Quando? L'estate. Che andiamo in vacanza? Ah, appunto, d'estate. L'estate. Ecco, però una cosa devo chiedere, perché Tamburi non può rispondere su questo, ma lei sì. Renzi, Angela Merkel, già ci ha chiarito che Draghi avrà dei mesi difficili perché è una vergine e poi ma andrà. Renzi non gliela mette molto semplice ad Angela Merkel, credo che no, no, no, non me lo spieghi. Renzi è Capricorno, giusto? Sì, Renzi è Capricorno, Merkel è Cancro, quindi sono proprio esattamente agli antipodi. Mm. E per di più Renzi ha il peggior pianeta possibile nel Cancro, che è il segno della Merkel. Ah, il peggior pianeta possibile, ok, quindi non c'è amore, diciamo. No. Ma come sarà il 2015 per il nostro Presidente del Consiglio? Penso che sia migliore rispetto agli ultimi mesi sicuramente e che possa continuare tranquillamente. Forse l'estate è peggiore, però ha delle ottime chance. La Russia invece? Non so se... La Russia è molto mal piazzata nei primi mesi dell'anno, poi piano piano potrà migliorare, però anche Putin ha un pessimo mese di marzo e penso che sarà abbastanza difficile emergere dall'impasse. Che segno ha Putin? Bilancia. Bilancia, ho capito. Ultima parte di Focus Economia speciale Natale a borse chiuse e allora le previsioni per il 2015. Oh, sono sempre previsioni, non è che uno c'ha il patentino della previsione più giusta, anche perché abbiamo visto che su questo fronte in questi anni non ci ha azzeccato quasi nessuno. Allora, Giovanni Tamburi, visto che lei, come spiegavo, mette i soldi dei risparmiatori che li danno a lei per comprare anche quote, parti di società italiane spesso, in alcuni casi quotate, in altri no, in altri casi le accompagna la quotazione. In quali settori lei o di quali imprese, che caratteristiche deve avere l'impresa nel 2015 perché uno abbia voglia di metterci dei soldi dentro, quindi comprare una quota parte, e si porta assieme anche la domanda quali settori vede in maggiore crescita? Ma il solito leitmotiv è l'export. Come ha detto lei prima, l'export continua a sostenere. E tra l'altro dobbiamo dire che il mondo, malgrado tutto quello che si dice, continua a crescere del 3 e del 4%, per cui le aziende buone, esportatrici, che riescono a piazzare i loro prodotti nei posti giusti, continuano a crescere automaticamente per il solo fatto che va al mercato. Per cui prima caratteristica certamente è l'export. In termini di settori, io ne individuerei tre. Il settore meccanico, elettromeccanico certamente continuerà molto bene, l'Italia come sappiamo è leader in moltissimi segmenti di questo settore, per cui certamente le aziende di questo comparto faranno molto bene. Un secondo settore lo chiamerei il finanziario speciale, cioè non le banche, ma le banche d'affari, ma le banche di investimento, ma strutture tipo la nostra, ad esempio, che sono... Vabbè, facile così, no, comprate i titoli da Tamburi. No, ma non è quello, io dico che... Chi ha selezionato le imprese in un certo modo, dimentichiamo anche la nostra, è in prima fila per beneficiare di questa situazione. Il terzo settore è il risparmio gestito. Cioè io credo che con quest'Italia che continua a risparmiare tantissimo, questo è un fatto che viene... Beh, ieri abbiamo visto il nuovo record nella raccolta, undicesimo record di fila nella raccolta del risparmio gestito. A suggestioni, raccolta del risparmio a record, 1500, adesso mi dimentico le decine... oltre 1500 miliardi di risparmio gestito. L'ho interrotta però, prego. No, questo è il tema, cioè gli italiani stanno risparmiando sempre di più. Chi un po' può? Per paura, certo. Un po' per paura, un po' perché tanti sono terrorizzati da entrare in un negozio, comprare magari cash un oggetto da 1000-2000 euro, non parliamo di un'automobile eccetera, si sentono subito sotto accusa del controlli fiscali, vabbè. Controlli fiscali eccetera, sì, eccetera. Se uno qualcosa nasconde però qui Tamburi... lo so, però purtroppo c'è questa sindrome. Questi soldi stanno arricchendo i private banker, i gestori di patrimoni eccetera, per cui io sono convinto che questo comparto, che ha già dato benissimo negli ultimi 2-3 anni, continuerà ad avere risorse in ascesa e sarà molto promettente. Quindi, ricapitolo, meccanica, elettromeccanica, settore meccanico, elettromeccanico, le società finanziarie, quelle appunto non le banche, ma chi fa, se ho ben capito, private banking o chi fa anche investment banking, e l'industria del risparmio gestito, perché, allora, qui va chiarita la cosa, è chiaro che con il record della disoccupazione abbiamo milioni di famiglie italiane in difficoltà. Però i dati, come spiegavamo anche ieri, che vediamo, sono anche di milioni di famiglie che, vedendo i rendimenti dei bot di BTP a zero, che non ti proteggono dall'inflazione, avendo comunque incertezza nell'acquistare o nel fare altro tipo di investimenti, danno i soldi al gestore o al private bank perché glieli gestisca. È molto semplice, se no non fai 1500 miliardi di raccolta in un anno di gestito. Grazie Mirti, anche per lei sui settori o sulle singole imprese o anche sui singoli paesi, prego. Come già vi avevo detto prima, la tecnologia senz'altro, meccanica, tutto ciò che è uraniano, quindi può avere un ottimo exploit nel nuovo anno. Perché uranio dov'è? Urano è nel segno dell'Ariete adesso, ecco. E andrà in perfetta armonia a Saturno in Sagittario. E poi vorrei anche far notare che ci saranno pianeti splendidi per l'Expo, perché l'Expo inizia proprio nel segno del Toro e avrà veramente un esito trascinatore rispetto alla nostra economia. Io adesso non vorrei gesti scaramantici a partire dal numero uno. Sono convintissima di quello che sto dicendo, anzi penso che sarà un fattore trainante veramente importante nel nuovo anno per l'Italia e per tutto ciò. Ma questo che ce lo auguriamo tutti fuori, come italiani, e il nostro bocca al lupo va per la verifica delle posizioni dei pianeti. Ci sarà addirittura Marte nel Toro nel mese di maggio e poi nei Gemelli, quindi ci sarà veramente un afflusso straordinario. Noi ce l'auguriamo e il bocca al lupo va a tutti quelli che lavorano all'Expo, a chi ci sta lavorando notte e giorno con i ritardi che abbiamo raccontato negli anni passati, con gli scandali che abbiamo raccontato, però poi alla fine tifiamo Italia, no? Nel senso, tifiamo Italia senza scandali e annullando i ritardi, ma è una grandissima occasione. A me ha fatto per inciso molta impressione il numero di biglietti già opzionati, cioè che l'Expo ha già dato non al singoli ma ai tour operator, a chi gestisce poi i pacchetti. Sono 7,5 milioni, sono di cui 4,5 all'estero, sono già un bel numero. Chiaro che poi l'obiettivo iniziale era 21 milioni, poi vedremo, ma 7,5 milioni è già un bel numero. Ci avviamo alla conclusione. Giovanni Tamburi, il rapporto di cambio, lei ha detto che non investirebbe comunque in titoli di Stato, abbiamo capito. Il rapporto di cambio come se lo attende? Siamo a 1,22 in questi giorni, 1,21,7, 1,22. Credo che sarà fra 1,15 e 1,20, non sono minimamente esperto di questa materia. Io ho detto che non investirei in titoli di Stato perché sono cose che rendono molto di più, non che non investirei in assoluto, perché secondo me con l'equity che è così basso in Italia e in Europa in generale, oggi chi vuole valore per i suoi investimenti deve investire in equity. L'errore più grande come investimento nella sua vita privata che ha fatto nel 2014? Non comprare abbastanza azioni e obbligazioni Fiat. Ah, quindi proprio su Fiat ci siamo. E Ferrari la comprerà? Certo, siamo posizionati con azioni, obbligazioni e convertendo, abbiamo messo più di 100 milioni di euro sommando tutto in questo titolo, per cui evidentemente crediamo moltissimo in questa operazione. Mirti, l'errore più grosso che ha fatto come previsioni, quello che non si aspettava? Non mi aspettavo che a metà marzo non succedesse quello che tutti pensavano che sarebbe successo, cioè una sorta di evento straordinario che invece non è avvenuto e quindi è giusto rilevarlo. E sull'euro come le stelle che sull'euro dicono? Io credo che all'inizio dell'anno migliorerà ancora il dollaro, specialmente in gennaio e febbraio. Poi invece il dollaro avrà una discesa soprattutto in estate, agosto-settembre, però in generale il trend attuale viene mantenuto. Cioè quindi un dollaro in rafforzamento fino a metà marzo, inizio aprile? Esatto, esatto. E poi invece un calo estivo, però diciamo che ci manteniamo più o meno nella situazione attuale. Quindi intorno a quota 1,22, 1,21? No, anche un po' meno. Anche un po' meno. Oh, sì. Oggi Mirti e Tamburi sono allineati su tutto, ma che vi siete sentiti prima? No, ma è una battuta, Mirti. È una battuta. È una battuta. Quindi se sbagliate, però sbagliate simul stabum simul cadunt. Se rischio. Sbagliate, sbagliate assieme. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu. Mettele insieme che accade laggiù, bibidi bobidi bu. Va bene, con sommo dispiacere per i puristi e le vestali di Focus Economia, che dicono, ma come, l'astrologa? Alcuni dicono anche, ma come, Tamburi, non l'astrologa, però il mondo sta cambiando. Per comunque chiedo scusa e venia alle vestali e ai cultori dell'ortodossia del programma, e auguro comunque buon Natale anche a loro. Un ringraziamento ovviamente a Grazia Mirti e a Giovanni Tamburi, buon Natale, e poi un ringraziamento a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi come sempre per l'assistenza in redazione. Un buon Natale anche a tutti i tecnici che ci hanno aiutato quest'anno. Il programma torna lunedì, chiaramente, noi ci risentiamo il 31 dicembre e gli auguri di buon anno ce li facciamo allora.